La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al libro di Antonio Cassese L'esperienza del male, guerra, torture, genocidio, terrorismo alla sbarra. Il volume è tratto da una conversazione con Giorgio Acquaviva, ospite oggi ai nostri microfoni. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato all'apertura della conferenza di pace di Parigi, che seguì alla prima guerra mondiale del 1919. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Il diritto internazionale, i tribunali, le convenzioni e gli accordi tra gli stati sono effettivamente in grado di far rispettare ovunque nel mondo i diritti umani? Interrogativi che sono più che legittimi quando gli orrori delle guerre e dei genocidi nei nostri tempi, dalla ex Jugoslavia al Darfur fino al Ruanda, hanno spinto molti osservatori a interrogarsi sui limiti di trattati internazionali approvati per proteggere i diritti umani da quegli stessi governi che poi li disattendono. Riflessioni che ci vengono proposti con forza dal libro di Antonio Cassese, l'illustre giurista scomparso proprio una settimana fa, frutto di una conversazione con Giorgio Acquaviva, dal titolo L'esperienza del male, guerra, torture, genocidio, terrorismo alla sbarra, appena pubblicato dal Mulino. È evidente che i caratteri intrinseci delle guerre moderne hanno reso inservibili e obsoleti i vecchi divieti del diritto internazionale umanitario. Tutti i più importanti trattati internazionali, stipulati dal 1868 al 2009 a Ginevra, L'Aia e a New York, non riescono più a frenare la violenza perché le guerre attuali sono completamente diverse da quelle di una volta. Sono scontri spietati tra belligeranti profondamente diseguali che hanno in comune solo il fanatismo e l'intolleranza. Le guerre moderne sono un ritorno alla barbarie. I guerriglieri che attaccano i civili nemici vengono considerati eroi dalla propria popolazione. Gli stati e i governi tendono a non processare i propri uomini e i tribunali penali internazionali quasi sempre non hanno competenza in materia. La questione, come si vede, è molto complessa. Chiama in causa le responsabilità dei governi, ma anche quello che viene comunemente definito il diritto dei vincitori di imporre le proprie condizioni ai vinti, che talvolta appaiono in contrasto con i principi stessi del diritto internazionale. Dopo Norimberga e dopo il processo di Adolf Eichmann del 1961, trascorrono alcuni decenni prima che la comunità internazionale decida di istituire tribunali con la funzione di giudicare responsabili di crimini nei confronti dell'umanità. Eppure gli anni 60, 70 e 80 furono teatro di guerre e repressioni feroci. In Vietnam, in Cambogia, nelle dittature militari in America Latina e poi ancora nella guerra Iran-Iraq, l'invasione sovietica in Afghanistan, la repressione in Africa del Sud e in Rhodesia. Solo con la fine di fatto della Guerra Fredda cominciò a delinearsi a livello internazionale una nuova volontà politica nel combattere i crimini contro l'umanità. Il 4 dicembre del 1989 l'Assemblea Generale dell'ONU incarica la Commissione per il diritto internazionale di studiare un'ipotesi di definizione di una giurisdizione penale internazionale. Esplodono nel frattempo conflitti con livelli di violenza inimmaginabili nell'ex Jugoslavia e in Ruanda. Nel 1993-94 il Consiglio di sicurezza dell'ONU istituisce due tribunali ad hoc, quello dell'AIA per giudicare i crimini dell'ex Jugoslavia e quello di Arusha in Tanzania per perseguire i crimini compiuti in Ruanda. Per la prima volta viene espressamente previsto il capo d'accusa crimini contro l'umanità. Il libro dello scomparso Antonio Cassese, che è stato tra l'altro presidente del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia e del Tribunale Speciale per il Libano, ci invita ora a riflettere sui limiti del diritto moderno, del moderno diritto umanitario. Ne parliamo proprio con Giorgio Acquaviva, che ha curato la conversazione con il professor Cassese. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto ci racconti un po' dell'idea di questo libro che noi, per la verità, avevamo già immaginato di sottoporre all'attenzione dei nostri ascoltatori prima, e poi la scomparsa così improvvisa del professore in qualche modo l'ha reso quasi d'obbligo, diciamo così. Certo. Beh, la perdita di Cassese è davvero enorme per la giustizia internazionale, per la sua capacità di pensiero e di elaborazione, ma anche per la sua capacità di organizzazione. Come racconta lui stesso nel libro, è di fatto merito suo se il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia è nato, e anche il fatto che abbiano affidato a lui la nascita di un tribunale molto delicato come quello speciale per il Libano, è evidente la sua capacità di organizzazione. È stato per me ovviamente un onore lavorare con lui a questo libro, ma soprattutto un'avventura intellettuale per la sua capacità di mettere a fuoco temi e problemi e di farcire il tutto con aneddoti, ricordi personali, citazioni letterarie. L'idea era di non fare un manuale accademico, ma un libro soprattutto dedicato a non addetti ai lavori, per cui il libro è concepito con capitoli in buona parte indipendenti l'uno dall'altro, per cui se si è interessati a capire che cos'è e che cosa non è il genocidio, è possibile farlo. Se si vuole affrontare il tema della tortura, si può andare a leggere quel capitolo in cui ci sono dei racconti di esperienze personali di Cassese, ma per esempio si scopre che l'Italia non ha un reato specifico di tortura nel codice penale. Ecco, noi abbiamo intitolato L'esperienza del male, anche perché Cassese era molto critico nei confronti della espressione banalità del male resa famosa da Hannah Arendt. Sì. Lui infatti nel ricostruire, nello smontare questa tesi a proposito del caso Eichmann, un certo giorno si riuscì con una espressione che ho riportato testualmente: ma quale banalità del male? Eichmann era un uomo con una tensione immorale fortissima, un desiderio straordinario di uccidere e di sterminare. E già se poi si ripercorrono i tratti di quel processo, si ha proprio la sensazione che lì c'era una lucida follia messa al servizio, come dire, di un imperativo che lui si era adoperato per rendere effettivo fino alle estreme conseguenze, quindi esatto, una specie di esercizio obbligato alla fedeltà a tutti i costi a Hitler. Sì, ma anche al di là della fedeltà, perché in breve Cassese spiega che in effetti in quel periodo Hitler voleva rallentare la repressione in Romania e Bulgaria, e invece Eichmann era decisamente determinato a portare a fondo lo sterminio e andò al di là del mandato diretto di Hitler, quindi non c'è nessuna banalità del male. Insomma. Per tutto il tempo che abbiamo lavorato al libro, in effetti io ricordo una sorta di gioco delle parti. C'erano momenti in cui io, preso da entusiasmo per le cose che mi raccontava, gli dicevo: benissimo, allora vuol dire che le cose si stanno mettendo proprio bene, e lui a questo punto raffreddava i miei entusiasmi dicendo: no, ci sono un sacco di limiti, e mi elencava questi limiti. Allora io qualche altra volta dicevo: ma allora non sta cambiando niente, e lui diceva: no, non è così, le cose stanno cambiando. Ecco, questo filo rosso credo che accompagni un po' tutto il libro e ci faccia capire in effetti le contraddizioni in cui gli stati stessi si trovano, perché come dicevi prima sottoscrivono dei trattati, poi cercano di eluderli e di passare sopra e di procedere con pratiche da crimini contro l'umanità. E già, perché poi è proprio questo l'interrogativo di partenza, cioè il diritto internazionale e le regole che gli stessi stati si pongono a protezione poi vengono disattesi, e dunque gli stessi di trattati internazionali non riescono a salvaguardare i diritti umani nel mondo. Ma guarda, credo che lo snodo anche per lui personalmente sia stato nel 1986, quando in un articolo lui sollevò una questione cruciale a livello di dibattito, nel senso che lui si chiese: le convenzioni internazionali tendono di solito a tutelare i civili e prigionieri di guerra e a escludere certi tipi di armi particolarmente odiose, il napalm, le armi chimiche, eccetera. Però queste convenzioni si applicano alle guerre fra stati, non si applicavano fino ad allora alle guerre interne ai singoli stati. E se pensiamo alla repressione di Saddam contro i curdi con le bombe chimiche, o l'intervento in Cecenia della Russia o della Cina in Tibet, è abbastanza incredibile. E lui si chiedeva in quell'articolo perché un massacro viene considerato più grave se fatto fra stati e meno grave se all'interno di uno stato. E poi uno stupro è sempre uno stupro, un'arma chimica è sempre un'arma l'arma chimica. Certo. Ecco, quell'articolo ebbe l'effetto di una deflagrazione a livello di dibattito internazionale. Lui poi ebbe la soddisfazione, quando era al Tribunale per la ex Jugoslavia, di applicare per la prima volta questa norma, diciamo, estesa. Quella sentenza ha fatto scuola, insomma. Ecco, ma quando, ripercorrendo la storia degli ultimi 60 anni, si parla di logica dei vincitori che impongono le loro condizioni ai vinti, si parla correttamente oppure si fa una operazione che non è, che è lontana dalla verità? Ma abbiamo un po' tutti, credo, su questo la sindrome di Norimberga. Esatto. Perché Norimberga è stata un'esperienza sicuramente pionieristica, perché era la prima volta nella storia in cui i responsabili di massacri su larga scala venivano sottoposti a processo, però è anche parziale, perché infatti ci fu una giustizia del vincitore. Sì. Ecco. Da allora però le cose sono decisamente cambiate. Nella ricostruzione avete fatto prima, giustamente avete detto che si è aspettato un po' la fine della guerra fredda per avere delle condizioni internazionali che fossero non di contrapposizione ma in qualche maniera di dialogo e di collaborazione. Beh, i tribunali internazionali messi in piedi dalle Nazioni Unite lavorano secondo un'altra logica. Non è la logica del vincitore, è una logica internazionale. Le corti sono formate da giudici di diversi paesi, anzi di solito di diversi continenti, quindi con esperienze anche giuridiche diverse alle spalle, che insieme devono trovare un punto comune per poter portare avanti il processo in maniera ferra, in maniera giusta, equa. I diritti degli imputati sono ai massimi livelli, non è prevista la pena di morte, quindi i tribunali internazionali funzionano molto bene. Mm-hmm. In questo senso la critica di Cassese era molto dura invece nei confronti del processo di Baghdad a Saddam Hussein, che rassomiglia più a Norimberga che non ai tribunali internazionali. Ecco, in conclusione, se dovessimo tracciare una linea tra nell'evoluzione del diritto internazionale da questo punto di vista, da Norimberga ai giorni nostri, attraverso le riflessioni che voi avete consegnato in questo interessantissimo libro con Antonio Cassese, quali possono essere gli elementi forti di differenziazione? Ma ci sono delle cose decisamente nuove che stanno emergendo. C'è una frontiera avanzata di diritti umani in Europa, grazie alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è davvero un bastione di difesa dei diritti umani, pur con alcuni limiti inevitabili, perché si è un po' all'inizio di questo lavoro. C'è per esempio il lavoro pionieristico che stava svolgendo lo stesso Cassese come Presidente del Tribunale Speciale per il Libano, perché è stato in grado di varare la prima definizione condivisa di terrorismo internazionale, che finora era osteggiata da molti stati e che invece all'AIA ha visto la luce pochi mesi fa. Direi che queste sono le due piste nuove. Poi c'è il Tribunale Penale Internazionale, quello sì, stabile, quello non ad hoc, che anche quello, sia pure con contraddizioni iniziali inevitabili, anche perché molti grossi stati non ne fanno parte, come Stati Uniti, Russia, Cina, India, Israele, eccetera, però è sicuramente sarà sempre più nei prossimi anni un punto di riferimento per la difesa dei diritti umani. Grazie a Giorgio Acquaviva e buona serata.